Un passo rapido sul lastrico del porticato nel corridoio. Soffiando all'infuori i suoi radi baffi, Mr. Deasy si fermò al tavolo. Anzitutto la nostra piccola questione amministrativa, disse. Estrasse dalla giacca un portafogli assicurato da un cinturino di cuoio. Si aprì di scatto ed egli ne estrasse due banconote, una delle quali formata da due metà unite insieme, e le depose con cura sul tavolo. Due, disse, fermando il cinturino e riponendo il portafogli. E ora la camera blindata per loro. La mano imbarazzata di Steven si mosse sulle conchiglie ammucchiate nel freddo mortaio di pietra. Buccini e monete cauri e conchiglie maculate. E questa attortigliata come il turbante di un emiro. E questa valva del nicchio di San Giacomo. Il gruzzolo di un antico pellegrino, morto tesoro, vuoti gusci di conchiglie. Una sovrana cadde, lucente e nuova, sulla soffice peluria del tappeto del tavolo. Tre, disse Mr. Deasy, rigirando in mano il suo forzieretto metallico. Questi sono aggeggi pratici. Vede, questo è per le sovrane, questo per gli scellini, le monete da 6 pence, le mezze corone. E qui le corone, vede? Ne fece uscire 2 corone e 2 scellini. 3 e 12, disse. Credo che troverà che il conto torna. Grazie, signore, disse Steven, raccogliendo insieme il denaro con timida fretta e infilandolo tutto in una tasca dei pantaloni. Grazie di nulla, disse Mr. Deasy, se lo è guadagnato. La mano di Steven, di nuovo libera, tornò ai vuoti gusci di conchiglia, simboli anche di bellezza e di potenza. Un rigonfio nella tasca, simboli insozzati di avidità e infelicità. Non li porti così, disse Mr. Deasy. Li tirerà fuori da qualche parte e li perderà. Compri uno di questi arnesi, li troverà molto pratici. Rispondere qualcosa. E il mio sarebbe spesso vuoto, disse Steven. La stessa stanza e la stessa ora, la stessa saggezza, ed io lo stesso. 3 volte ora, 3 cappi intorno al mio collo qui. Bene, li posso spezzare in questo istante se voglio. Perché lei non risparmia, disse Mr. Deasy, puntando un dito. Lei non sa ancora cos'è il denaro. Il denaro è potere. Quando lei avrà vissuto quanto me, lo so, solo che i giovani sapessero. Ma cosa dice Shakespeare? Solo metti denaro nella borsa. Iago, mormorò Steven. Levò gli occhi dalle vane conchiglie per incontrare lo sguardo del vecchio. Lui lo sapeva cos'era il denaro, disse Mr. Deasy. Ha fatto quattrini. Poeta, sì, ma anche inglese. Lo sa lei cos'è il vanto degli inglesi? Lo sa qual è la parola più fiera che udirà mai uscire dalla bocca di un inglese? Il signore delle onde, i suoi occhi freddi come il mare, guardavano la baia vuota. La colpa è della storia, sembra, su di me e sulle mie parole. Senza odio. Che sul suo impero, disse Steven, non tramonta mai il sole. Bah, esclamò Mr. Deasy. Quello non è inglese, quello lo disse un celta francese. Tambureggiò col suo piccolo forziere contro l'unghia del pollice. Glielo dirò io, disse solennemente. Qual è il suo vanto più fiero? Ho pagato. Brav'uomo, brav'uomo. Ho pagato. Non ho mai preso in prestito uno scellino in vita mia. Può sentirsi così, lei? Non devo nulla. Può capirlo? A Malaga, 9 sterline, 3 paia di pedalini, un paio di stivali, cravatte. A Carran, 10 ghinee. A McCann, una ghinea. A Fred Ryan, 2 scellini. A Temple, 2 colazioni. A Russell una guinea, a Cousin 10 scellini a Bob Reynolds, mezza guinea, a Keller 3 guinee, a Mrs. McKernan 5 settimane di pensione. Il rigonfio che ho in tasca è inutile. Per il momento no, rispose Steven. Mister Deasy rise con ricca letizia, riponendo il suo piccolo forziere. Lo sapevo che non avrebbe potuto, disse gioiosamente. Ma un giorno dovrà sentirlo. Siamo un popolo generoso, ma dobbiamo anche essere giusti. Io ho paura di quelle parole grosse, disse Steven, che ci rendono tanto infelici. Mister Deasy fissò severamente per qualche istante sopra il caminetto la ben costrutta sagoma di un uomo in gonnellino scozzese, Alberto Edoardo, principe di Galles. Lei mi considera un vecchio rimbambito e un vecchio conservatore, disse la sua voce pensosa. Io ho veduto 3 generazioni dal tempo di O'Connor. Mi ricordo la carestia del 46. Lo sa che le logge orangiste si agitavano per la revoca dell'Unione 20 anni prima che lo facesse O'Connell o prima che i prelati della sua religione lo denunciassero come demagogo? Voi feniani vi dimenticate di certe cose. Gloriosa, pia e immortale memoria, la loggia del diamante Armagh la splendida, con appesi i cadaveri dei papisti, rauchi, mascherati e armati, la convenzione dei proprietari terrieri, il nero nord e la Bibbia blu dei presbiteriani. Terroni ribelli, restatevene giù. Steven abbozzò un breve gesto. Ho sangue ribelle in me anch'io, disse Mister Deasy, da parte materna, ma discendo da Sir John Blackwood che votò per l'Unione. Siamo tutti irlandesi, tutti figli di re. Ahimè, disse Steven. Per vias rectas, disse con fermezza Mister Deasy, era il suo motto. Votò per l'Unione e si mise gli stivaloni per venire a cavallo a Dublino dalle Isles of Down per votare. Lalla lallara, la strada sassosa di Dublino. Un rozzo nobilotto di campagna, a cavallo con gli stivaloni lucidi. Giorno coperto, Sir John. Giorno coperto, vostro onore. Giorno, giorno. Due stivaloni traballano penzoloni verso Dublino. Lalla lallara, lalla lallara là. A proposito, disse Mister Deasy, lei può farmi un favore, Mister Dedalus, con qualcuno dei suoi amici letterati. Ho qui una lettera per la stampa. Si accomodi un momento, devo solo copiare la fine. Andò allo scrittoio accanto alla finestra, tirò avanti 2 volte la poltrona e rilesse qualche parola dal foglio sul tamburo della macchina da scrivere. Si accomodi. Mi scusi, disse di sopra la spalla. I dettami del senso comune. Un momento solo. Scrutò di sotto le sopracciglia ispide il manoscritto accanto al gomito e, borbottando, lentamente incominciò a pungolare i tasti rigidi della macchina, soffiando a volte dopo aver girato il tamburo per cancellare un errore. Steven si assise silenziosamente dinanzi alla regal presenza. Incorniciate lungo le pareti, immagini di cavalli scomparsi rendevano omaggio le loro miti teste librate in aria. Repulse di Lord Hastings, Shotover del Duca di Westminster, Ceylon del Duca di Beaufort, Prix de Paris 1866. Fantomatici fantini li montavano, attenti al segno. Vide la loro carriera, difensori dei colori regali, e urlò con le urla di folle scomparse. Punto! Ordinò Mister Deasy ai tasti, ma l'immediato dibattito di questa questione essenziale, dove Cralli mi portò per arricchirci alla svelta, in cerca di vincitori fra i carrozzini chiazzati di fango, fra gli ululati degli allibratori sui loro panchetti e il tanfo della mescita sul limo iridato. Ben ribelli alla pari, 10-1 gli altri. Giocatori di dadi e di bussolotti, cui passammo in fretta accanto inseguendo gli zoccoli, berretti e le giubbe in gara, oltre quella donna con la faccia come una scarpa, la madama di un beccaio che grufolava assetata il suo quarto d'arancio. Grida risuonarono stridule dal campo di gioco dei ragazzi e un fischietto sibilante. Di nuovo una meta. Io sono fra loro, fra i loro corpi combattivi nella mischia, il certame della vita. Vuoi dire quel cocco di mamma dalle gambe storte che sembra leggermente debole di stomaco? Certami, il tempo scosso rimbalza, scossa su scossa. Certami, il limo e frastuono di battaglie, la bava della morte raggelata sugli uccisi, un urlo di lance adescate con sanguinolente interiora umane. Ecco fatto, disse Mr. Deasy alzandosi. Si avvicinò al tavolo, fissando insieme i fogli con uno spillo. Steven si rizzò in piedi. Ho esposto la questione in nuce, disse Mr. Deasy. E a proposito dell'afta epizootica, ci dia un'occhiata. Non si può avere un'opinione diversa in merito. Se mi è lecito abusare del vostro spazio prezioso, la dottrina dell'SFR che tanto spesso nella nostra storia. Il nostro commercio di bestiame, al modo di tutte le nostre antiche industrie, la combutta di Liverpool che mandò in malora il piano per il porto di Galway, conflagrazione europea, rifornimenti di cereali attraverso le anguste acque del canale, l'imperturbabilità plutoperfetta del Ministero dell'Agricoltura, concessa un'allusione classica, Cassandra, da una donna dalla condotta non irreprensibile, venendo al nocciolo. Non ho peli sulla lingua, vero? Chiese Mr. Deasy, mentre Steven continuava a leggere. Afta epizootica, noto col nome di preparato di Koch, siero e virus, percentuale di cavalli immunizzati, pestilenza del bestiame, i cavalli dell'imperatore a Mürsteg, nella bassa Austria, medici veterinari, Mr. Henry Blackwood Price, cortese offerta di sperimentare. Dettami del senso comune, questione essenziale. In tutti i sensi dell'espressione, prendere il toro per le corna, ringraziandovi per l'ospitalità nelle vostre colonne. Voglio che sia stampata e letta, disse Mr. Deasy. Vedrà che alla prossima epidemia metteranno un embargo sul bestiame irlandese e si può curare. È stato già curato. Mio cugino Blackwood Price mi scrive che viene regolarmente curato e guarito in Austria da quei veterinari. Si offrono di venire qua. Sto cercando di trovare appoggio al ministero. Adesso voglio provare la pubblicità. Sono circondato da difficoltà, da intrighi, da congiure di corridoio, da... Alzò l'indice agitandolo in aria come un vecchio prima che la sua voce si facesse sentire. Mi stia bene a sentire, Mr. Dedalus, disse. L'Inghilterra è nelle mani degli ebrei, in tutte le posizioni più in vista, la finanza, la stampa, ed essi sono il sintomo della decadenza di una nazione. Ovunque si radunino, divorano la forza vitale della nazione. L'ho visto venire in questi anni. Com'è vero che noi stiamo qua? I mercanti ebrei sono già intenti alla loro opera di distruzione. La vecchia Inghilterra sta morendo. Si allontanò rapidamente, gli occhi acquistando un'azzurra vitalità nell'attraversare un ampio raggio di sole. Fece dietro front e tornò indietro. Sta morendo, disse. Se a quest'ora non è già morta. Grido di prostituta di strada in strada. Intesserà il sudario della vecchia Inghilterra. I suoi occhi sbarrati alla visione fissarono severi di là del raggio di sole in cui si era fermato. Un mercante, disse Steven, è uno che compra poco e rivende a molto. Ebreo gentile che sia, no? Hanno peccato contro la luce, disse gravemente Mr. Deasy, e si vedono le tenebre nei loro occhi. Ed è per questo che vanno errando sulla terra fino ad oggi. Sui gradini della Borsa di Parigi, uomini dalla pelle dorata che indicavano le quotazioni sulle dita ingemmate, chiacchiericcio d'oche, sciamavano rumorosi, goffi per il tempio, le teste vicine in combutta sotto tubini maldestri. Non loro, questi abiti, queste parole, questi gesti. I loro tondi occhi lenti smentivano le parole, i gesti ansiosi e inoffensivi, ma sapevano dei rancori accumulati intorno a loro e sapevano che il loro zelo era vano, vana pazienza di accumulare e tesaurizzare. Il tempo avrebbe tutto disperso, un tesoro accumulato al margine della strada, saccheggiato e via. I loro occhi sapevano gli anni dell'errare e pazienti, sapevano i disonori della loro carne. Chi non l'ha fatto? Disse Steven. Cosa intende dire? Chiese Mister Deasy. Avanzò di un passo e si fermò accanto al tavolo. La mandibola gli scese di sbieco, aperta indecisamente. È questa l'antica saggezza? Attende di sentire da me. La storia, disse Steven, è un incubo da cui cerco di destarmi. Dal campo di gioco i ragazzi levarono un urlo, un fischietto sibilante. Meta! E se l'incubo ti tirasse un calcio proditorio? Le vie del creatore non sono le nostre vie, disse Mister Deasy. Tutta la storia si muove verso un'unica grande meta, la manifestazione di Dio. Steven accennò col pollice alla finestra, dicendo: Quello è Dio. Che cosa? Chiese Mister Deasy. Un urlo per la strada, rispose Steven alzando le spalle. Mister Deasy abbassò gli occhi e si tenne per qualche tempo le pinne del naso strette fra le dita. Levando di nuovo lo sguardo, le liberò. Io sono più felice di lei, disse. Abbiamo commesso molti errori e molti peccati. Una donna portò il peccato nel mondo. Per una donna dalla condotta non irreprensibile, Elena, la moglie fuggiasca di Menelao, per 10 anni i Greci fecero guerra a Troia. Una moglie infedele fu la prima a portare gli stranieri qui sulle nostre sponde, la moglie di MacMarrog e il suo druida O'Rourke, principe di Breffni. Fu pure una donna a far cadere Parnell. Molti errori, molti fallimenti, ma non l'unico peccato. Sono un lottatore, ora alla fine dei miei giorni, ma mi batterò per la giustizia fino alla fine. Che l'Ulster si batterà e l'Ulster giustizia avrà. Steven sollevò i fogli che aveva in mano. Bene, signore, cominciò. Prevedo, disse Mister Deasy, che lei non durerà molto a lungo in questo lavoro. Non è nato per insegnare, mi pare. Forse sbaglio. Per imparare piuttosto, disse Steven. E qui cos'altro imparerai? Mister Deasy scosse la testa. Chissà, disse. Per imparare bisogna essere umili, ma la vita è la grande maestra. Steven fece di nuovo frusciare i fogli. Quanto a questi, cominciò. Sì, disse Mister Deasy. Ne ha due copie lì, se potesse farle pubblicare subito. Telegraph, Irish Homestead. Proverò, disse Steven, e le farò sapere qualcosa domani. Conosco un poco due direttori di giornali. Basta così, disse vivacemente Mister Deasy. Ho scritto ieri sera all'onorevole Field. Oggi c'è una riunione dell'Associazione dei commercianti di bestiame al City Arms Hotel. Gli ho chiesto di comunicare la mia lettera alla riunione. Veda se può farla pubblicare nei suoi due giornali. Quali sono? Living in Telegraph, basta così, disse Mister Deasy. Non c'è tempo da perdere. Ora devo rispondere a quella lettera di mio cugino. Buongiorno, signore, disse Steven, mettendosi i fogli in tasca. Grazie. Di nulla, disse Mister Deasy, frugando fra le carte sullo scrittoio. Mi piace spezzare una lancia con lei, vecchio come sono. Buongiorno, signore, ripeté Steven, inchinandosi alla schiena curva dell'altro. Uscì attraverso il portico aperto e giù per il viale inghiaiato, sotto gli alberi, udendo grida di voci e schiocchi di bastoni dal campo di gioco. I leoni accosciati sui pilastri nel passare attraverso il cancello, terrori sdentati. Però lo aiuterò nella sua lotta. Mulligan mi affibbierà un nuovo nomignolo, il bardo Bazzicabovi. Mister Dedalus! Mi corre dietro. Niente altre lettere, spero. Solo un momento. Sì, signore, disse Steven voltandosi sul cancello. Mister Deasy si fermò, ansimando e deglutendo il fiato. Volevo soltanto dire, disse. L'Irlanda, dicono, ha l'onore di essere il solo paese che non ha mai perseguitato gli ebrei. Lo sa lei? No, e lo sa perché? Mostrò un severo cipiglio all'aria luminosa. Perché, signore? Chiese Steven cominciando a sorridere. Perché non li ha mai lasciati entrare? Disse solennemente Mr. Deasy. Un grumo tossicoloso di riso gli balzò dalla gola, tirandosi dietro una sferragliante catena di catarro. Si voltò indietro svelto, tossendo, ridendo, agitando in aria le braccia levate. «Non li ha mai lasciati entrare!» esclamò di nuovo attraverso il riso, mentre calpestava con piedi inghiettati la ghiaia del viale. «Ecco perché!» Sulle sue sagge spalle, attraverso la scacchiera delle foglie, il sole lanciava lustrini, danzanti monete.